Nell'VIII secolo a.C., motivi di carattere politico, commerciale e demografico spinsero gli abitanti di alcune regioni della Grecia a dirigere la prora delle loro navi verso l'Occidente. Sfidando il Mar Ionio, il mare di Omero, Achei, Locresi e Calcidesi seguirono le rotte utilizzate in passato dai commercianti e fondarono, lungo le coste dell'Italia meridionale, le loro colonie. Ebbe inizio così una civiltà, quella della Magna Grecia, che diede fama e rispetto a queste terre per lunghi secoli. Furono probabilmente gravi turbamenti sociali quelli che all'inizio del VII secolo a.C. spinsero parte della popolazione della Locride, regione povera e montuosa della Grecia centrale, ad emigrare e fondare sulla costa ionica della Calabria Locri e Pizefiri. Al loro arrivo i Greci si insediarono presso il promontorio di Capo Zefirio e trovarono sparsi sulle alture della costa numerosi insediamenti indigeni che già da alcuni decenni erano in rapporti commerciali con i mercanti greci, come si può ricostruire dalla ceramica greca rinvenuta nelle necropoli. I nuovi coloni strinsero probabilmente trattati di pace con queste popolazioni, ma il desiderio di impadronirsi di terre più fertili li spinse a violare i patti in un modo astuto. L'episodio, tramandato dallo storico greco Polibio, svela infatti come i Locresi si fossero impegnati con gli indigeni in un giuramento di convivenza pacifica finché avessero calpestato la stessa terra e portato la testa sulle spalle. Ma all'atto del giuramento nascosero terra nei calzari e teste d'aglio sulle spalle e una volta eliminatele ritennero di poter violare i patti senza risultare spergiuri di fronte alla divinità. Successivamente il desiderio di impadronirsi di terre più fertili li costrinse a spingersi più a nord, nell'area fertile situata tra le fiumare di Gerace e di Portigliola e accanto al nome che ricordava la terra d'origine aggiunsero il toponimo di Epizefiri a indicare la loro posizione in direzione del vento dell'est, lo Zefirio. La conoscenza della città è stata favorita, oltre che dalla descrizione tramandataci dalle fonti letterarie antiche, anche dalla possibilità di effettuare scavi in un'area non urbanizzata che ha consentito negli ultimi 100 anni ricerche archeologiche tra le più estese ed organiche. La tutela dei monumenti locresi ebbe inizio alla fine dell'Ottocento in seguito ad una campagna di scavo italo-tedesca condotta dall'archeologo Petersen, affiancato da un giovane archeologo originario di Rovereto, Paolo Orsi. A quasi un secolo dall'individuazione della colonia, numerosi sono oggi i dati acquisiti che ci consentono di formulare una storia del sito che illustra i caratteri tipici delle città coloniali greche. Una cinta muraria costruita in grossi blocchi di pietra squadrata racchiudeva un'area di 230 ettari. Un settore della piana costiera venne sfruttato per l'impianto di un regolare tessuto urbano. Numerose strade strette e ravvicinate, intersecandosi ortogonalmente con strade più ampie e larghe, creavano isolati di forma rettangolare allungata. Quest'impianto è visibile in un quartiere della città denominato oggi 100 Camere. Qui vivevano e producevano opere di pregevole fattura artistica numerosi artigiani. Sono rimaste in buono stato di conservazione due grosse fornaci e una di esse reca ancora visibili i resti della camera di cottura e della griglia su cui venivano poggiati i manufatti in argilla. Ritrovamenti quali un piccolo altare in terracotta con la rappresentazione di una Nike attestano inoltre il notevole livello qualitativo raggiunto dagli artisti locresi nel V secolo a.C. Tensioni sociali legate alla crescita demografica spinsero l'aristocrazia locrese a cercare nuovi spazi agricoli sul versante tirrenico. Gruppi di popolazione si spostarono per fondare Ipponion, l'attuale Vibo Valentia, e presso la foce del fiume Mesima, nel cuore di una fertilissima area pianeggiante, Medma, l'attuale Rosarno. Nel contempo, un codice di leggi scritte attribuite al legislatore Zaleuco organizzava la vita civile e politica della colonia. Personaggio molto famoso tra gli antichi, al pari di Licurgo e Solone, Zaleuco fu forse il più antico legislatore del mondo ellenico che abbia messo per iscritto le sue leggi, commisurando le pene ai diversi reati commessi. Il suo codice di leggi rispecchiava una società fortemente conservatrice, al cui vertice si trovava la nobiltà delle 100 case, le 100 famiglie nobili che discendevano dai primi coloni. Della città antica non è stata individuata con certezza l'agorà, la grande piazza che esplicava molteplici funzioni, da quelle commerciali a quelle politiche, mentre sono state ben evidenziate le aree a destinazione sacrale. Il culto di Persefone, la dea della fecondità e dei raccolti, aveva il suo santuario sul colle della Mannella, nella zona nord-occidentale della città, e rivestiva un'importanza non solo locale, ma estesa a tutta la Magna Grecia. Dai depositi votivi sono venuti alla luce oggetti vari, molti appartenenti alla sfera femminile. Ma il ritrovamento più straordinario è costituito dalle tavolette in argilla, i pinakes, che rappresentano una delle forme artistiche più raffinate dell'arte magno-greca. A leggero rilievo sono rappresentate scene legate al culto della dea, dal rapimento di Hades su un carro tirato da cavalli alati ai riti matrimoniali. All'esterno delle mura era situato un altro santuario. L'edificio era costituito da tre corpi allungati disposti sui tre lati di una grande piazza rettangolare. All'interno vennero trovati centinaia di piccoli depositi votivi, in uno dei quali si rinvennero due tazze con dediche dipinte ad Afrodite. Alcune ipotesi riconoscono in questo il luogo nel quale si esercitava la sacra prostituzione, una forma del culto di Afrodite di origine orientale, e per questo non accolta all'interno delle mura, a cui erano adibite fanciulle di umili origini e in casi eccezionali donne nobili. Spicca per i suoi resti architettonici il santuario posto nella contrada di Marasà. Non si conosce il nome della divinità a cui era dedicato, ma restano visibili sul terreno il tempio e il suo altare. La prima costruzione del tempio in stile dorico risale al VII secolo a.C., al momento iniziale della fondazione della colonia. Ampliato un secolo dopo, venne, senza un motivo preciso, distrutto e al suo posto venne edificato nella metà del V secolo un nuovo tempio in stile ionico, dotato di 17 colonne sui lati lunghi e 6 su quelli corti. Il materiale utilizzato per la costruzione, portato appositamente da Siracusa, impegnò notevoli risorse economiche e artistiche e rappresentò un'importante affermazione di prestigio della polis locrise. L'unico elemento dell'elevato rimasto in piedi è il rocchio inferiore di una colonna, la cui attuale collocazione non è peraltro quella originaria. Esso infatti fu trovato abbattuto e solo negli anni 50 si decise di collocarlo in posizione verticale. Decoravano il tempio due gruppi scultorei realizzati in marmo proveniente dall'isola greca di Paros, raffiguranti i Dioscuri, i mitici gemelli figli di Zeus. Al tempio, come di consueto, venne affiancato un altare formato da una piattaforma allungata su cui avvenivano i sacrifici e intorno alla quale si disponevano coloro che partecipavano al rito. Nel culto greco il sacrificio costituiva il momento essenziale del rituale, al quale partecipavano accanto agli uomini simbolicamente gli dèi. Il fumo, prodotto dall'incenerimento delle parti non commestibili dell'animale sacrificato, saliva agli dèi e simboleggiava così l'unione tra questi e gli uomini. La fine del V e l'inizio del IV secolo a.C. segnarono un periodo di rinnovata espansione per Locri. La sua alleanza con Dionisio I di Siracusa determinò la massima espansione territoriale con l'annessione dei centri di Caulo,